Racconti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nel terremoto che ha travolto l'Europa in seguito al referendum con cui lo scorso 23 giugno la Gran Bretagna ha scelto di uscire dall'Unione Europea, si discute su come rafforzare l'impianto della costruzione europea, a partire dalla sua conquista forse più rilevante, la libera circolazione dei beni e delle persone, in una parola il mercato unico, cui anche la Gran Bretagna ha aderito e nei confronti della quale andranno ora rinegoziati spazi e accordi nel lungo processo, almeno 2 anni, che ci separa dalla celebrazione vera e propria del divorzio, periodo di transizione in cui formalmente anche la Gran Bretagna continuerà a far parte dello spazio comune europeo. Mercato unico, dunque. I cardini del mercato unico sono la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, e sono globalmente noti come le 4 libertà sancite dal Trattato dell'UE. Quest'ultimo autorizza le istituzioni europee ad adottare leggi sotto forma di regolamenti, direttive e decisioni che prevalgono sulle leggi nazionali e che sono vincolanti per le amministrazioni nazionali. Nel corso dei suoi oltre 20 anni di esistenza, il mercato unico è passato dai 345 milioni di consumatori del 1992 agli oltre 500 milioni di oggi. Tuttavia, la frammentazione dei sistemi fiscali nazionali impedisce l'integrazione e pregiudica l'efficienza del mercato. Esistono ancora mercati nazionali distinti nel campo dei servizi finanziari, dell'energia e dei trasporti. E il commercio elettronico tra paesi dell'UE ha preso più tempo per svilupparsi che a livello nazionale. E vi sono differenze sostanziali tra le normative, le norme tecniche e le pratiche applicate da ogni paese. Inoltre, il settore dei servizi è in ritardo rispetto a quello delle merci. Sebbene dal 2006 le imprese possano offrire una serie di servizi all'estero, a partire dal paese in cui hanno sede. Vi è poi il capitolo fondamentale dell'unione bancaria, molto importante soprattutto per noi, come mostra l'andamento di questi giorni dei mercati finanziari. Il meccanismo per la vigilanza e la risoluzione delle crisi nel settore bancario è passato, come sappiamo, dal livello nazionale a quello europeo, ma manca ancora la componente fondamentale della garanzia europea sui depositi, e va accelerata la costituzione di un'unione dei mercati dei capitali a livello dell'Unione Europea. Ecco, appunto, la crisi apertasi con la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea può accelerare questo processo? Giriamo la domanda al professor Marcello Messori, docente di economia al Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS, direttore della LUIS School of European Political Economy. Buonasera professore, bentornato. Buonasera, grazie. Allora, effettivamente ci può essere un'accelerazione secondo lei? Ma guardi, ciò che manca all'Unione Bancaria Europea sono sostanzialmente 2 cose. Un intervento pubblico di ultima istanza, qualora la risoluzione delle crisi richieda mezzi finanziari aggiuntivi rispetto al cosiddetto bail-in e all'utilizzo di fondi bancari, il fondo bancario che diventerà un fondo bancario unico per tutta l'Europa nel giro di 7-8 anni, e manca soprattutto una garanzia, uno schema di garanzia sui depositi a livello europeo. Io penso che la soluzione, il completamento di questo processo richieda innanzitutto un accordo fra gli Stati membri, fra la riduzione del rischio e la ripartizione tra i diversi paesi di questo stesso rischio, e temo quindi che, nonostante lo shock molto significativo determinato dall'uscita del Regno Unito e quindi una spinta forte ad accelerare processi di integrazione fra gli altri 27 membri, dovremo aspettare la conclusione del ciclo politico, cioè le elezioni in Francia e Germania nel 2017, per completare davvero il processo di unione bancaria. E in effetti anche questo mercato unico che va completato è un po' il sintomo di una costruzione che ancora è zoppa, perché noi siamo partiti con la moneta unica e manca tutto il resto, quindi questo è il problema di fondo. Assolutamente sì, e devo dire che questo forse è il lascito più negativo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il Regno Unito spingeva molto per una liberalizzazione dei servizi e per un'unificazione dei mercati europei riguardo ai servizi finanziari e non finanziari. Io temo che con l'uscita del Regno Unito questa spinta si attenuerà. Naturalmente rimane poi l'altro grande interrogativo, e cioè come uscirà il Regno Unito e quali saranno gli accordi che seguiranno questa sua uscita, e anche le modalità di come il Regno Unito uscirà e di quali saranno gli accordi successivi peserà molto sull'evoluzione del mercato unico. E in effetti poi la storia dei rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, come sappiamo, è abbastanza contrastata, perché il Regno Unito ha aderito all'Unione Europea nel 1973, nel 75 ha fatto un referendum che era quella volta lì insomma positivo, sì. E poi però ha spuntato nel corso del tempo condizioni favorevoli, e a questo punto forse questo referendum, che è consultivo, ricordiamolo, magari può contribuire a un chiarimento definitivo dei rapporti. Chissà, certo è che gli accordi che erano stati presi, che erano intercorsi tra Regno Unito e istituzioni europee nel febbraio di quest'anno per riservare al Regno Unito ulteriori trattamenti speciali al fine appunto di scoraggiare una decisione di uscita da parte degli elettori britannici, decade con la scelta di Brexit. Quindi il tavolo dal punto di vista formale è sgombro. Come si ricordava prima, però, il mercato unico non è semplicemente un mercato per il libero scambio di beni, servizi e capitali, vi è anche un caposaldo irrinunciabile che è la libera circolazione delle persone. Io credo che il significato politico della scelta Brexit nel Regno Unito sia stato quello di porre vincoli inaccettabili alla libera circolazione delle persone, e quindi adesso la palla è un po' dalla parte del Regno Unito. Se le istituzioni britanniche intendono seguire alla lettera l'indicazione democratica, anche se da noi non condivisa, di uscita e delle motivazioni dell'uscita, vedo problematico un trattamento analogo a quello attualmente riservato alla Norvegia, cioè una partecipazione al mercato unico. Se viceversa il Regno Unito vuole attenersi alla lettera politica della decisione del referendum, si dovrà ricorrere a un faticoso accordo bilaterale che non consenta al Regno Unito una piena partecipazione al mercato unico, ma che tenga conto delle interconnessioni e dei legami storici che comunque intercorrono tra Unione Europea e Regno Unito. Sarà una partita molto complicata e dagli esiti molto incerti, a meno che, come lei suggeriva implicitamente, non prevalga un'interpretazione di un referendum soltanto consultivo, vi sia un'opzione molto forte da parte dello schieramento politico britannico a favore di un remain, di una permanenza, e questo naturalmente potrebbe essere legittimato da elezioni politiche anticipate, però per il momento mi sembra un po' un'ipotesi, non suffragata da fatti. E a proposito di partita, professor Messori, la palla certamente nel campo della Gran Bretagna per quanto riguarda l'attivazione della procedura stante l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, però è anche nel campo dell'Unione Europea, che finalmente dovrà decidere se fare o no quei necessari passi in avanti in direzione della maggiore integrazione delle politiche economiche. Ecco, ma c'è qua secondo lei qualche margine? Perché purtroppo il mio punto di vista riproduce un po' l'interpretazione che l'ho dato sull'evoluzione del processo di unione bancaria. Naturalmente a livello soggettivo, come tanti altri analisti, auspicherei un'accelerazione dell'integrazione nell'Unione Europea e a maggior ragione nell'ambito dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Temo però che il ciclo politico non sia favorevole. Certamente il segnale che è stato dato dal referendum britannico non va nel senso di una cessione di sovranità da parte degli Stati membri a favore di un maggior coordinamento centralizzato europeo, e quindi con la minaccia di una vittoria del partito della Le Pen in Francia e con la necessità della cancelliera Merkel di rafforzare la sua leadership in Germania, io temo che fino all'esito delle elezioni francese e tedesche, quindi fino all'autunno del 2017, non avremo grandi progressi. Ancora auspico che si completi il processo di unione bancaria, che si lavori per l'istituzione di un bilancio per l'Unione, per l'area dell'euro, con la creazione di un ministro delle finanze per l'area dell'euro unico, però dubito che questi passi avanti possano essere davvero compiuti prima del novembre 2017, e questo è un rischio, perché questo espone l'area dell'euro e l'unione economica al pieno impatto di uno shock macroeconomico così negativo come quello dell'uscita del Regno Unito dalla nostra casa comune europea. Bene, grazie professor Messori. Insomma, abbiamo capito che il processo sarà piuttosto lungo e complicato. La ringraziamo ancora veramente per essere stato con noi. Grazie a lei, a presto, buon lavoro. Grazie a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia. A sabato prossimo.